FM. Consueto con lo spazio dei concerti, Travis Blues Band il 31 di maggio dal vivo a Paderno Dugnano all'anfiteatro Parco Lago Nord. Motor Psycho saranno il 22 di maggio al Viper di Firenze, il 24 maggio al Velvet di Rimini, il 25 maggio all'Alcatraz di Milano. After Hours, formazione che tornerà comunque a trovarci la prossima settimana, saranno comunque dal vivo questo venerdì 23 maggio al Palasharp di Milano. Sempre venerdì 23 maggio al Jamba Live di Rapallo, provincia di Genova, Obo, Ricochet e a seguire DJ Set con il nostro Edo Rossi, Donkeys Forever. Il 30 di maggio al Dixieland Café di Corso Sempione. Rock FM All Star Band, sabato 24 maggio, ultimo concerto della Rock FM All Star Band all'Area Jens all'aperto a Pontedera, provincia di Pisa. I Kiss ritorneranno in Italia a Milano al Dutch Forum il 24 di giugno. Metallica saranno dal vivo nell'unica data, il 22 di luglio, all'Arena Parco Nord, in quel di Bologna. 26 luglio Idroscalo di Milano Rock and Field Festival con Biomechanical, Vision Divine, Threshold, Epica, Halloween ed Avantasia. Unica data italiana per i Rage Against the Machine il 14 giugno allo Stadio Braglia di Modena. Negramaro, 31 maggio, altro stadio, quello San Siro Meazza, con i fratelli Seusiers, The Fashion e Think. Jethro Tull saranno il 2 di luglio al Teatro Arcimboldi a Milano, il 5 luglio a Pistoia in Piazza del Duomo e il 6 luglio in questa bellissima località che è Taormina al Teatro Antico. E chiudiamo con l'Elvis Fan Club di Stagno, provincia di Livorno, per il venerdì 23 dal vivo Fabio Lione and the Bad Boys. Con questo abbiamo terminato il nostro primo appuntamento di quest'oggi, il prossimo lo ritroverete più tardi nel corso del pomeriggio insieme a Max De Rio. Rock FM. Fear. I know the message my heart is sending. If you don't read it, you keep me guessing. Is it love? Is it love we're after? Is it love? Is it love? The broken record goes round and round. In a circle without a sound, I'm underwater in overdrive. You hide in laughter. What's on your mind? Is it love? Is it love after? Gonna have fun. Yes. Good rocking tonight. Dalle 22 di sabato 24 maggio fino alle 8 del mattino seguente, una non stop in diretta con il Faulisi e con mille canzoni rock and roll, rockabilly, boogie e surf. Un'intera notte di spassosissimo, grintosissimo, divertentissimo rock and roll dalle 22 di sabato 24 maggio su Rock FM. Il grande Joe Cocker, proprio ieri lo ascoltavamo perché era il suo compleanno, oggi l'abbiamo ritrovato con She Came In Through The Bathroom Windows. Ed è ora il tempo degli anni 60 con The Yardbirds e la loro For Your Love. Tomorrow, where you mask I found. And I fear when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. Well, the dogs, you find her. Got some time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Time, do it for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Si parla di una reunion con proprio lui come vocalist che abbandona i Velvet Revolver e ritorna negli Stone Temple Pilots, che oggi abbiamo ritrovato alle 10.46 con la versione acustica di questa loro storica Plush. Di rock sudista, questi Blackfoot che oggi abbiamo riascoltato con il loro Treno. Notizia che ci riporta al 21 maggio del 1980, durante un concerto ad Amburgo in Germania, Joe Strummer, quindi stiamo parlando della formazione dei Clash sul palco, chissà come mai, probabilmente irritato da qualcuno delle prime file, ha pensato bene di spaccare la sua chitarra in testa ad uno della prima fila. Naturalmente viene arrestato, penso anche giustamente, gli viene fatto anche il test dell'alcol, siamo nel 1980, però negativo, quindi era per giunta sobrio, ha spaccato la chitarra in testa, era veramente incacchiato. E Joe Strummer con i Clash che oggi ritroviamo e riascoltiamo con Rock the Cash Bar. Dave Cash va alla formazione dei Clash. Altra notizia, andiamo al 1983, 21 di maggio, David Bowie arriva al numero uno nelle classifiche di vendita dei singoli americani con un brano intitolato Let's Dance. Your face.